Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come sempre il venerdì ci sarà la classifica, la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione, degli enti locali, della pubblica amministrazione di carattere centrale. E poi invece, come stiamo facendo ormai da mesi, anche il caso virtuoso, ossia chi ha deciso di avviare, nonostante le difficoltà di questo paese e le difficoltà in generale dell'economia, una nuova attività e si è messo in gioco volutamente. Li mettiamo così in confronto tra chi non cambia e continua con i vecchi vizi e chi invece si mette in gioco. Per quello che riguarda invece gli altri temi, parleremo, come promesso, della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Perché hanno provveduto ambedue a svalutare il valore delle proprie azioni. Qui il tema, l'abbiamo già trattato altre volte, riguarda le banche popolari non quotate, o le banche non quotate, in questo caso popolari. Perché quando non sono quotate, il prezzo delle azioni non lo decide il mercato, ma lo decide la banca stessa. È un conto è comprare un'azione di una banca quotata, che poi può essere rivenduta perdendoci eventualmente, ma può essere rivenduta in maniera molto agevole, perché c'è il cosiddetto flottante, c'è una domanda e un'offerta minuto per minuto e quotidiana. Altra cosa è comprare e avere. Sappiamo che in molti casi le banche chiedevano per accendere un mutuo di comprare anche delle azioni, ma se queste azioni hanno un prezzo che viene fissato dal consiglio di amministrazione, così, non dico arbitraria senza offesa, in maniera così, reputando che quello sia il prezzo dell'azione, poi quando devi venderla hai dei grossi problemi, cosa che ci hanno segnalato molti ascoltatori che sono evidentemente correntisti sia di Veneto Banca che di Popolare di Vicenza. Ne parlammo, se ricordate bene, durante Vinitaly con lo stesso presidente della Popolare di Vicenza, Zonin. Ma per quello che riguarda la Popolare di Vicenza, il valore delle azioni è stato abbassato da 62,5 a 48 euro per azione, meno 23%. Veneto Banca ha ridotto il valore dei titoli da 39,5 a 30 euro, meno 23%. Queste delibere dei consigli di amministrazione devono essere poi sottoposte all'assemblea dei soci. Il motivo non è stato un gesto così, perché corrisponderebbe il nuovo valore delle azioni meglio agli asset della banca stessa. Entrambi gli istituti, ricordo, sono coinvolti dalla riforma delle banche popolari, per cui dovranno trasformarsi in SPA, e proprio alla luce, in vista di questa trasformazione, che i consigli di amministrazione hanno detto rimoduliamo il valore delle azioni più rispondente. Ne parleremo a mercati chiusi, mercati che in questo momento sono abbastanza piatti. A Milano più 0,15%, meglio fa Parigi più 0,50 e soprattutto Francoforte più 1,50, Londra più 0,80, l'America più 0,30%, euro a quota 1,06, tra i titoli Azimut più 2,90, Mediaset più 2,80, ST Microelectronics più 2,60, Tenaris più 2,5, Mediolanum più 2,20, Saipem più 1,50, Luxottica più 1,20, come A2A l'1% lo guadagna Finmeccanica. Fronte opposto invece Prismian meno 1,70, Jux meno 1,60, Pop Milano meno 1,20, UbiBank meno 1, Banco Popolare meno 0,90, come Intesa San Paolo, Exor perde lo 0,70%. Ci occuperemo, dicevo, oltre che delle banche popolari, anche delle iniziative che arriveranno per il Sole 24 del lunedì, quindi una nuova sezione dedicata al mercato del lavoro, e anche dei dati che sono usciti oggi sul mercato del lavoro, obiettivamente abbastanza singolari. Secondo l'INPS, infatti, i nuovi assunti, al di là dei contratti trasformati da CocoPro, tempi determinati, in tempi indeterminati, i nuovi contratti nei primi due mesi del 2014 ci sono stati molti contratti trasformati a tempo indeterminato, e questo già lo sappiamo. Si stima che il saldo alla fine tra contratti cessati e nuovi contratti a tempo indeterminato sia favorevole di 43.000 unità, La stragrande maggioranza di questi sono però contratti già esistenti trasformati in tempo indeterminato, che è sempre una buona cosa perché non riguarda ancora il Jobs Act, tra le altre cose. Questi sono i mesi di gennaio e febbraio, quindi sono aziende che si sono avvalse dell'opportunità di non pagare i contributi per 3 anni, ed è una buona cosa che uno abbia da un cocopro un tempo indeterminato. Altra cosa è dire che è aumentata l'occupazione. Così non è stato nei primi 2 mesi dell'anno, e su questo ricordo anche la campagna del Sole 24 Ore per chiedere al ministro Poletti l'embargo, la fine dell'embargo sui dati. Il ministro Poletti poi ha risposto la settimana scorsa dicendo che ogni mese darà i dati definitivi per mese su mese, perché stando a quello che comunica l'INPS nei primi 2 mesi si contano 13 occupati in più. Nei primi 2 mesi del 2015 si contano 13 occupati in più rispetto al 2014. Anche di questo parleremo, così come parleremo dell'invalidità. Le pensioni al sud vedono, ahimè, una su quattro per invalidità civile, col massimo rispetto per l'invalidità civile, che è una cosa serissima e drammatica. Va detto però che non è possibile che al sud la percentuale di pensioni di invalidità civile sia il doppio esatto di quelle del nord, 23% contro l'11,3%. Praticamente meno di 1 milione al nord su 8.770.000 pensioni, e invece al sud siamo a 1.250.000 su 5.500.000 di pensioni. Non è pensabile, e ripeto col massimo rispetto per chi ha un'invalidità e una pensione di invalidità, non è pensabile che nel nostro sud l'invalidità colpisca il doppio che al nord, considerato che poi il tasso di occupazione è anche più basso, ma le pensioni di invalidità sono di gran lunga più alte. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito della radio, le altre notizie in breve. Pensioni, ma in questo caso per le dichiarazioni del ministro Poletti, che ha detto è necessario, noi pensiamo sia necessario mettere mano alla riforma Fornero. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, quelli che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il governo rimetterà mano alla riforma Fornero sulle pensioni e lo farà, come ha detto ieri il ministro Poletti, con la prossima legge di stabilità. Sappiamo che con la riforma Fornero si è passati a un sistema pensionistico molto rigido e con requisiti molto severi, sia in termini di età che di anni di contributi necessari per lasciare il lavoro. Da qui l'intenzione di rimettere mano alla riforma per introdurre una maggiore flessibilità sulle modalità di uscita dal lavoro, consentendo per esempio l'uscita anticipata in cambio di un piccolo o meno piccolo taglio dell'assegno. Non a caso il ministro Poletti ha parlato di una flessibilità graduale e sostenibile economicamente. Naturalmente quello del costo degli interventi sulle pensioni è un capitolo molto delicato, e per capirlo basta ricordare che la riforma Fornero, per quanto odiata e contestata, garantirà per i prossimi anni risparmi per quasi 80 miliardi di euro. Ecco perché il tema dei costi sarà decisivo per definire il margine di intervento entro cui il governo potrà in futuro muoversi. E a dirla tutta, il governo farebbe anche bene a non illudere troppo i lavoratori sull'allentamento della riforma. Qualche correzione potrà arrivare, ma visti i vincoli e i nostri impegni con Bruxelles, nessuno può ignorare che mettere mano alle pensioni equivale sempre a mettere mano al portafogli, e di risorse per farlo ora non ce ne sono. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, così appunto il commento di Salvatore Padula. Per quello che riguarda invece le altre notizie, in breve partiamo come sempre rapidamente dalle notizie di carattere internazionale. Oggi il rublo ha continuato a rafforzarsi nei confronti sia di euro che di dollaro. Siamo sotto i 55 rubli per un euro, a 54. Gli analisti non escludono però un'improvvisa inversione di marcia. Perché? Perché il tasso di cambio si sta allontanando dai valori reali dell'economia russa, visto che il prezzo del petrolio resta basso, oggi è a 51 dollari al barile, e potrebbe esserci una nuova inversione di tendenza. Per quello che riguarda invece le banche europee, Deutsche Bank rischia una multa da 1,5 miliardi di dollari per l'accusa di manipolazione del Libor, e quindi l'articolo è del Financial Times di oggi. Sarebbe, se comminata, la sanzione più alta mai comminata a una banca accusata di manipolazione dell'indice di riferimento. E tra l'altro Deutsche Bank è in trattativa con le autorità inglesi e americane per patteggiare le accuse. Un accordo potrebbe essere raggiunto verso la fine di aprile. Detto 13.000, ho detto 13 occupati in più, mi riferisco ai dati dei primi due mesi. 13, una squadra di calcio senza neanche una gran panchina. Ecco, questo, per questo che è importante, e lo dico non per scuderia, aveva ragione Sole 24 Ore nel chiedere, l'abbiamo fatto modestamente anche noi al ministro Poletti, dati e ufficiali certificati, se no si parte con la rida di posi, perdiamo mezz'ora a spiegare la differenza tra un nuovo contratto di un lavoro già esistente o un nuovo occupato. Sono due cose molto diverse, tutte e due belle, ma una più bella dell'altra, perché la cosa migliore è avere un nuovo occupato con un nuovo contratto a tempo indeterminato. Comunque andiamo avanti con le altre notizie. Buona quella che riguarda di nuovo la nostra, i nostri titoli di Stato e il nostro debito. L'asta di botta a 12 mesi, oggi il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di botta un anno. Pensate che il rendimento è inesistente, è dello 0,013%, è il nuovo minimo storico. Il DEF è slittato, il Consiglio dei Ministri che deve dare via libera al documento economico finanziario, lo slittato alle 20. I tecnici avrebbero individuato anche delle risorse aggiuntive di circa 1,5 miliardi che Renzi vorrebbe destinare a misure per il welfare. Si starebbe valutando, da quello che abbiamo capito, l'ipotesi di un decreto a parte, e su questo devo dire che c'è anche una ridefinizione del piano grandi opere, con un dimezzamento di quelle strategiche e la riduzione degli stanziamenti. Le grandi opere strategiche verrebbero, i finanziamenti scenderebbero da 76 a 69 miliardi di euro. Le risorse si concentrerebbero su 25 grandi progetti: MOSE, linee ferroviarie tra cui la Torino-Lione, collegamenti stradali e autostradali, penalizzati porti, dighe, acquedotti. Scompaiono anche, e questo a mio avviso è grave, i 490 milioni destinati all'edilizia scolastica. È grave non per così eticamente, perché la scuola ha chiaramente un valore che va oltre quello economico, ma è grave anche perché dal punto di vista meramente economico abbiamo spesso ripetuto che le edilizie scolastiche, essendo spesso micro edilizia o edilizia con piccoli importi, ha un grosso valore sostanzialmente di volano per l'economia, perché sono piccoli appalti che creano ricchezza in quel territorio. Li vincono ditte piccole che però hanno assumono e consumano sul territorio, per cui va bene la grande opera, però la grande opera, appunto perché è grande, ha altre dinamiche. Le opere di edilizia, di micro edilizia del territorio, a partire da quelle scolastiche, hanno un effetto virtuoso, certo, perché l'abbiamo visto in tutti gli studi, non solo in Italia. Per cui, se si vuole dare qualcosa per la crescita, peccato, o meglio, è un errore, per essere ancora più chiari, sarebbe un errore se dovessero scomparire nel documento i 490 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica. Allora, altre notizie in breve. Per quello che riguarda le tasse regionali, secondo l'osservatorio UIL della Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, della UIL, Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo ed Emilia-Romagna hanno già provveduto a rimodulare le aliquote con effetti diversi da regione a regione. Però, siccome questa è una notizia che in qualche modo si collega, è vero che le regioni lamentano i tagli, ma continuiamo noi a raccontare gli sprechi, la leggiamo tra un attimo. Però c'è anche un'altra norma, la legge sul federalismo del 2011 attribuisce alle città metropolitane la possibilità di porre un'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale. I sindaci interessati ci stanno seriamente pensando, il balzello dovrebbe valere circa un euro. Il presidente dell'ANCI Fassino ha rassicurato, si tratterebbe di un importo assolutamente minimo rispetto al prezzo del biglietto, vedremo se arriverà un euro anche di tassa sul biglietto aereo per la città metropolitana, per chi, per l'aeroporto in queste città metropolitane chiaramente. Ancora per quello che riguarda brevemente altre notizie, la vicenda Cirio, torniamo indietro di non so quanti anni, Cragnotti. Allora, confermata la condanna anche in appello per Cesare Geronzi a 4 anni, un lieve sconto di pena invece di 4 mesi per Sergio Cragnotti, che passa da 9 anni a 8 anni e 8 mesi. Questa la sentenza della seconda sezione della Corte d'Appello di Roma alla fine del processo di secondo grado, appunto, sul crack Cirio. Un ascoltatore che sta bombardando di sms, parleremo di Taranto, abbiamo tanti temi lì, se voglio dire dell'Ilva abbiamo parlato penso 20-30 volte nelle puntate, per cui parleremo anche di Taranto. Non è che se mi manda 28 messaggi al secondo questo, diciamo, sia faccia pressione sui temi, i temi sono anche in base alla giornata economico-finanziaria e poi avendo un programma limitato scegliamo un certo numero di temi, ma gli assicuro che di tutto ci può accusare tranne che non essere sensibile alla vicenda Ilva. Allora, visto che siamo in tema, adesso arriviamo, prima di arrivare alla classifica, anche alla cronaca di oggi, che delle volte supera anche la nostra classifica. Perché lo dico? Perché allora, ve l'hanno già raccontato i nostri GR24, un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 persone, praticamente quasi l'intera giunta di Cellino San Marco, il comune di Albano, in provincia di Brindisi, commissariato per infiltrazioni mafiose, l'ordinanza di custodia cautelare, cioè le manette in casa, sono scattate appunto per 14 persone, tra cui anche l'ex sindaco, da parte dei carabinieri di Brindisi. L'ex primo cittadino Francesco Cascione, avvocato penalista di Forza Italia, è stato condotto in carcere, altro che domiciliario, ho sbagliato io, contestati reati contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, peculato, corruzione, turbata libertà degli incanti e calunnia. Poi anche quattro imprenditori delle province di Brindisi, Bari e Lecce, una persona, da quanto si è preso vicino all'organizzazione mafiosa Sacra Corona Unita. L'indagine si chiama Do Ut Des, non ci vuole un gran latinista per capire di che cosa si occupi, Do affinché tu mi dia, o Do per ricevere, chiamatelo come volete, una vera e propria organizzazione criminale facente capo a Cascione, che pilotava sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali in cambio di tangenti. Nel mirino anche un concorso per vigili urbani, per il quale furono affissi volantini in città che ne denunciavano le irregolarità. Beh, tra l'altro, per incassare le presunte tangenti a Cellino San Marco, secondo le ipotesi d'accusa, si procedeva anche alla sovraffatturazione degli appalti pubblici. Ma va? Allora, un esempio, 60.000 euro il campo sportivo comunale, perché vedete, poi ogni tanto qualcuno mi dice: ma voi vi occupate di poche decine di migliaia di euro, di poche centinaia di migliaia? Sì, ho capito, però quando poi parliamo di enti locali, il campo di calcio, il campo sportivo comunale, per chi abita a Cellino San Marco è importante, e allora che su 60.000 euro che 60.000 euro fosse l'importo della procedura, ma il costo effettivo fossero 30.000, non è un dettaglio, perché con quegli altri 30.000 euro facevi un altro campo di calcio, un altro campo sportivo per i ragazzi di Cellino San Marco. È populismo anche questo. E infatti gli altri 30.000 se lo sono divisi il sindaco di Cellino e gli altri, tra l'altro è stato arrestato nella tenuta di Albano, il cantante, girò l'Italia per, tra l'altro, per Marina Premier, un personaggio abbastanza interessante. Comunque risultava domiciliato nelle tenute di Albano Carrisi, il quale non è assolutamente coinvolto. Vabbè, siamo arrivati un po' a scadenza. Allora, prima di mandare la classifica, c'è la pubblicità e il meteo, poi al rientro la classifica poco invidiabile di Focus Economia, i 5 sprechi della sprechi essere buoni della settimana, e poi le altre notizie 349-238, o meglio il caso virtuoso e le altre notizie 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Radio 24. E 34 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, in una settimana in cui molto abbiamo parlato di spending review, di tagli e trasferimenti agli enti locali, i comuni arrabbiati, il governo che deve tirar fuori trovare 10 miliardi di risparmi se non vuole che scattino al 1° gennaio le clausole automatiche di salvaguardia, da 16 miliardi in più di IVA e accise, ci siamo permessi molte volte di dire: guardate che Cottarelli aveva già fatto un lungo lavoro, il commissario mandato via, trombato da Renzi, si può dire così, aveva fatto un lungo lavoro. Ora non buttate via tutto il lavoro di Cottarelli, c'è un nuovo commissario arrivato una settimana fa, il governo ha perso tempo perché tra uno e l'altro sono passati dei mesi. La spending review è una cosa seria, non si può fare con i tagli orizzontali, sennò penalizzi funzioni importanti della macchina pubblica che dopo un po' devi riattivare, e quindi non hai risparmiato nulla. Se tu vuoi fare una spending review seria, come fanno in Gran Bretagna, come ci hanno raccontato quelli che fanno la consulenza, ovviamente italiani, al governo britannico, devi andare in quello che si chiama fine tuning, nel dettaglio delle singole voci, capire quella sì, quella no. È un lavoro certosino, poco twittabile, poco da conferenza stampa, ma molto utile se vuoi fare, e sennò come quello che dimagrisce perché non mangia per una settimana e poi la settimana dopo rimette su tutti i pesi che, tutto il peso che ha perso, ok? Allora, le regioni, visto che subiscono dei tagli, stanno pensando di aumentare, non tutte, le addizionali regionali. Sono 5 milioni di contribuenti coinvolti, l'osservatore Will lo racconta. Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo ed Emilia Romagna. La Lombardia ha lievemente alzato l'aliquota sui redditi oltre i 75.000 euro. Piemonte, Lazio, Liguria e Abruzzo invece hanno alzato il prelievo su alcuni scaglioni. L'Emilia Romagna ha leggermente ridotto invece il prelievo sotto i 40.000 euro. Le regioni però hanno tempo fino a luglio per varare le nuove aliquote. Già ora il prelievo medio dell'addizionale regionale sale dai 377 euro del 2014 ai 390 euro. Presidente Renzi, capisce perché poi quando le dice abbiamo ridotto le tasse, non aumenteremo le tasse, ma poi le regioni, i comuni le aumentano, aumentano le tasse sulla casa, gli italiani non sono sintonizzati con il suo pensiero, perché poi le tasse non sono solo quelle del governo centrale, sono tutte quelle che paghiamo in un anno. Comunque, già è aumentato del 3,2% il prelievo regionale. Negli ultimi due anni l'incremento è stato del 7,5%. Hai voglia con gli 80 euro ad alcuni. Il Lazio ha aumentato le tasse di pertinenza regionale del 48%, quindi puoi spiegare che si sono ridotte, che si è ridotta la pressione fiscale a chi abita nel Lazio? È dura, è duretta. Allora, oggi presentiamo altri casi, alcuni sono anche dei suggerimenti su dove reperire i soldi se si vuol fare seriamente la spending review, che la faccia Cottarelli, che la faccia Gottlieb, che la faccia chi vuole, ma deve essere una cosa molto certosina. E allora via con la nostra poco invidiabile classifica degli sprechi. La classifica della settimana. Allora partiamo morbidi, nel senso che la notizia in realtà è quasi buona. Torniamo sul tema di quanto vengono pagati a gettoni di presenza i consiglieri comunali. Sappiamo benissimo che ci sono migliaia di consiglieri comunali che prendono o niente o pochissimi euro. Altri comuni grandi e non solo hanno invece il brutto vizio di pagarli tanto, ma soprattutto di non controllare quante se ne fanno. Bari: nei primi 4 mesi il comune di Bari ha già versato 300.000 euro in gettoni di presenza, perché deve liquidare le 55 commissioni che si tengono ogni settimana al comune. 10 commissioni, più di 10 commissioni al giorno, da lunedì a venerdì. Il gettone a Bari è uno dei più alti, è 73 euro per commissione. Il nuovo regolamento che la Segreteria Generale del Comune di Bari sta predisponendo prevede però che finalmente il gettone di presenza per le commissioni sarà assegnato ai consiglieri comunali che partecipano almeno al 50% della durata della riunione, di solito è un'ora. Però io dico una cosa, siccome sono 72-73 euro all'ora, ma perché non fare un passo in più e dire tutta l'ora? Dai, fai sto sforzo, vuoi 73 euro in un'ora? Non è un... E fai lo sforzo, non è un bruttissimo stipendio, 73 euro per un'ora. Fai lo sforzo, invece che stare almeno mezz'ora, stai tutta l'ora, vedrai che ce la puoi fare. Perché sennò ci sono tutti questi furbetti che entrano e escono, stanno un minuto, timbrano e se ne... Fate un'ora. Comune di Bari, osate, un'ora. Vuoi soldi? Fai il tempo pieno, che poi è un'ora, dai. Visto che si riuniscono 55 volte alla settimana, ce ne sono quindi almeno 10, magari lavorano anche il sabato, al giorno, non mi sembra, se uno ogni giorno sta un'ora e prende 73 euro, ma alla fine hai preso 350 euro in una settimana per fare 5 ore di lavoro, non mi sembra bruttissimo il lavoro, poi insomma, è una scelta. Andiamo rapidi perché poi arriva la parte grossa. Allora, la busta paga ma senza stipendio. Qui questo la dice lunga sulle capacità dei funzionari numerosissimi, oltre 20.000 della Regione Sicilia. È al nostro quarto posto. Praticamente furono assunti, parliamo dei precari del Dipartimento del Territorio Ambiente della Regione. Furono assunti nel 2003 come Coco Pro, erano 45, tutti laureati. Poi di anno in anno il contratto viene prorogato fino al 2013. E poi viene bloccata la proroga dal commissario dello Stato, scatta il licenziamento. Dopo un anno però vengono riassunti a febbraio 2014 perché firmano un accordo con la regione di conciliazione. Rinunciano a qualunque rivalsa per il passato e sono in 33. E scatta il nuovo contratto. C'è un piccolo problema: questi hanno la busta paga ma non hanno lo stipendio, perché nessuno ha comunicato tra l'altro all'INPS della firma del nuovo contratto, quindi non hanno ricevuto fino a inizio marzo nessuno stipendio, nessun versamento previdenziale, assicurativo e contributivo a INEL e INPS, e adesso gli arriverà pure il CUD. Chiaro che stanno facendo ricorso, ma al di là del danno economico, qui c'è proprio l'incapacità professionale dei responsabili. Il neodirigente Maurizio Pirillo li ha sospesi, ho capito, ma oltre che sospendere loro, può far capire e cercare chi non ha comunicato all'INPS e all'INAIL il fatto che con un accordo di conciliazione li avevate riassunti a febbraio del 2014 e non li avete mai pagati? Con i più deboli. Adesso andiamo nella parte alta della classifica. Terzo posto le Ferrovie Nord. La Procura di Milano ha alzato il coperchio sui conti delle Ferrovie Nord e insomma sta guardando le spese. Ora tutto sarà legittimo, io le leggo. 20.000 euro di spese in un centro di toelettatura per cani, è incluso nel biglietto se vai su quel cane che ti facciano uno shampoo, 17.000 euro per 3 dipinti, 9.000 euro in abbigliamento, 10.000 euro tra ristoranti, bar e pasticcerie in giorni non lavorativi. Parliamo dei dirigenti, delle spese della dirigenza delle Ferrovie Nord. 3.000 euro in profumi. Ma usateli sui treni delle volte, viste le condizioni delle Ferrovie Nord, i profumi. 5.000 euro in medicinali e una cifra ancora non imprecisata per giocate sui siti di poker online. Ah, pure quello. Un capitolo a parte poi le multe per infrazione al codice della strada, che non si capisce perché debbano pagare i cittadini, le fa un dirigente della Ferrovie Nord e se le pagasse lui. 170.000 euro. C'è però chi non capisce perché il presidente della Ferrovie Nord, che è 17 anni che è lì, Norberto Achille, in un'intervista dichiara che non si tratta di denaro pubblico. Ferrovie Nord Milano È una SPA quotata in borsa che fa utili, non gestisce soldi pubblici. Un attimo, Norberto Achille, lei tanti anni che è lì, ma sa benissimo che Ferrovie Nord Milano è controllata al 57,6% dalla regione, e scusi, la regione e i soldi che glieli dà, visto che parlavamo di addizionali regionali, e il 14,7% è delle Ferrovie dello Stato. Ora, lei mi deve spiegare come fa a dire che non è denaro pubblico. 57% della regione, e quindi dei lombardi, 15% è di tutti degli italiani, inclusi i lombardi, ma di chi sono le Ferrovie Nord? Detto questo, attenzione che anche se fosse una società privata, e se fosse funzionasse come una società privata, dubito che l'ufficio del personale farebbe passare bigodini del barboncino o lo Chanel numero 5, le due gocce di Marilyn Monroe, come diciamo spese utili. E noi parliamo, lo dico a chi mi scrive, ah ma ci sono altri gruppi privati, parliamo solo dei soldi pubblici, di quello che fanno i gruppi privati, non me ne frega nulla, nel senso che risponderanno gli azionisti, i manager, l'utile e i conti, ok? Penultimo posto, teniamoci forte, mani sul volante, dice Milan la mattina, va bene, ma qui non è che mani sul volante, è Malox a portata di mano. La Farnesina, questa è un invito appunto al governo a stare attento quando tagli, vai a vedere bene le cifre, perché sono piccole apparentemente, ma sono tante. Allora, il Ministero degli Esteri ancora nel 2014 stanziava in bilancio 1.136.000 euro per l'ormai defunta Unione Latina, che è un organismo internazionale sciolto, perché disciolto nell'acido, nel 2012, che si occupava dell'eredità culturale dei paesi di lingua latina. Anche qui l'hanno chiuso nel 2012, ma la Farnesina continua a destinare a un ente chiuso 1.136.000 euro. Poi c'è l'assegno da 1.300.000 euro che la Farnesina stacca per la partecipazione al BRESCE, ossia il Regional Bureau for Science and Culture in Europe, è l'ufficio regionale UNESCO che ha sede a Venezia. Ma è necessaria sta roba? Spiegateci, magari sì, ma è necessaria il Brescia. Poi c'è la partecipazione alla non meglio identificata Carta Europea dell'Energia. Carta Europea dell'Energia, che costa sta carta? 450.000 euro la carta costa, dice Mina, oggi sembra una replica. Poi c'è il Ministero della Farnesina che spende 730.000 euro per Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, misterioso, 224.000 euro al Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, 96.000 euro all'Osservatorio Audiovisivo Europeo, all'Osservatorio Audiovisivo Europeo 260.000 euro di contributo. Va bene. Cottarelli scriveva, queste sono cose che non abbiamo inventato noi, le ha scritte Cottarelli nella Spending Review, ha detto attenzione, non spendete 3 milioni di euro all'anno per contributi obbligatori all'OSCE, che è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, è un contributo sovrastimato rispetto alle effettive esigenze. Se ne propone, scrive Carlo Cottarelli nella Spending Review, quindi il definanziamento per un ammontare pari a 3 milioni, cioè staccate proprio la spina. Poi ci sono cose più modeste. Allora, noi partecipiamo all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Insomma, sono 470.000 euro, magari si può rinegoziare. Non ho capito cosa dia la Farnesina a fare 100.000 euro al Comitato Consultivo del Cotone. Ma che c'è, lo zio Tom, la capanna zio Tom? Ma il cotone non si fa più in Italia, o sbaglio? Non so. 100.000 euro, ho capito, sono pochi, ma sono sempre 100.000 euro. E poi l'Istituto Nazionale Internazionale del Freddo, qualcuno avanza ipotesi, e poi 33.000 euro alla CIEC, Commissione Internazionale dell'Età Civile, bellissimo il titolo, se capisce una mazza a cosa serve. Detto questo, e adesso vi lascio poi dopo il traffico al numero uno, vi dico già che il numero uno questa volta lo vince, il primo posto lo vince la regione Liguria, però siccome le spese dei consiglieri vanno oltre, come diceva Blade Runner, ho visto cose che voi umani, ecco, oltre cose che voi umani. Tre che più, la classifica della settimana. And the winner is... la Liguria, le spese pazze della regione Liguria. Allora, adesso qua ci devo mettere un attimo. È già in collegamento il nostro ospite virtuoso, nel senso di chi accetta la sfida, Marco Rizzuto, buonasera. Buonasera, sono qua. No, lei non c'entra niente con la Liguria, un attimo però. Lei ascolti con noi. Dunque, allora, qui sono le contestazioni sui rimborsi dei consiglieri liguri. Matteo Rosso, quando era capogruppo del PDL, la Finanza gli contesta di non aver controllato i rimborsi dei medicinali presentati dai suoi consiglieri. Immodium per disturbi intestinali. Guardate che l'Immodium dovete rimborsarlo voi a noi fra un po'. Immodium per i disturbi intestinali, Antoral per il mal di gola, Zimox è un antibiotico. E, tra l'altro, ci sono, andiamo con ordine. Edoardo Rixi, con la X, ex candidato alla presidenza della regione per la Lega, all'epoca aveva il dono dell'ubiquità, presentava il rimborso dell'autostrada per un viaggio a Milano per l'espletamento del mandato popolare, ma dal telepass risultava da Aosta e Dura. Teletrasporto, Luigi Morgillo, vicepresidente del Consiglio regionale di Liguria Libera, da chi? Liguria Libera ha presentato le fatture di un viaggio a Bolzano per un incontro con amministratori e parlamentari della provincia autonoma. E vabbè, fin lì dice, c'è un incontro tra un consigliere ligure e la provincia autonoma di Bolzano, pagando 660 euro all'hotel Griff. Peccato che dormisse con lui anche la moglie. Ora va tutto bene, ma siccome 700 euro per una notte non sono pochi, no, almeno dividi. No, a Sofia in Bulgaria, sempre Luigi Morgillo si reca per un incontro con l'ambasciatore. Io, sapete che bandirei per legge ogni missione internazionale delle regioni italiane, a meno che non siano all'interno di una missione di sistema dell'intero Stato italiano, per cui che il consigliere della regione Liguria incontri l'ambasciatore in Bulgaria, non ho capito per cosa. Comunque, dal 15 al 18 giugno richiede un rimborso dettagliato, 904,69 euro. Però i servizi vengono conteggiati tre volte, quindi molto dettagliato negli euro, meno nel conteggio, glieli pagano tre volte. A Saturnia, a Morgillo, non ci va per lavoro, ma per le terme, immagino. Prenota una camera con lo stesso numero di quella di Bolzano, gli piace da 105. Gode di tutti i trattamenti benefici, presenta un conto di 1415 euro. Voglio dire che dovremmo pagare noi, i liguri, ma anche noi. Peccato che la fattura sveli inequivocabilmente che si trovava in compagnia della moglie. Morgillo, va tutto bene, è un posto bellissimo Saturnia e fa anche bene andare alle terme, uno ci può anche restare, però non è che possiamo pagarle noi 1415 euro. Morgillo, Rixi di nuovo, ci stupisci, Rixi stupisci, a Pontida per il raduno è molto attento alle spese perché alloggia in un B&B, peccato che il conto sia di nuovo per due persone. Benzi, gruppo misto, Alessandro Benzi all'hotel Cavour di Firenze deve presenziare un forum internazionale. Giustamente, per presenziare un forum internazionale chi ti porti? Ti porti la moglie e due figli e spendi giustamente 500 euro. L'assessore PD allo sviluppo economico Renzo Guccinelli il 16 marzo 2011 scende a Roma per una riunione, però purtroppo anche lì fa pagare per due e non per uno. Capitolo ristoranti, Rosario Monteleone ci ha provato. Ad Assisi a Bologna, già che c'era, ha tirato fuori 420 euro di albergo. Però, quando hanno visto la fattura per le due persone, i funzionari addetti al controllo, meno male, hanno dimezzato la fattura. Nicolò Scialfa va a Roma per una riunione di partito, chiede un rimborso per il ristorante Nazareno. Attenzione, è il Nazareno in questo caso è il ristorante, non il patto PD Forza Italia. Quanto è il rimborso? 410 euro. Tre pasti. Ma perché? Perché tre pasti? Perché vai giù per una riunione di partito? Ti paghiamo la cena, vabbè, diciamo che ci sta, io non so neanche perché. Però ma perché tre pasti? Perché 410 euro? Matteo Rossi, ex SEL, si reca a Firenze da Latini e paga 100 euro con l'ospite. Capitolo fatture ritoccate, c'è chi sbaglia i calcoli e mette nei rimborsi pure le sigarette, va bene, dai, sigarette, dai, ma facciamole passare le sigarette, anzi... alcuni invitiamoli così proprio a fumare sempre di più. Marco Melgrati e Edoardo Rixi pareggiano 22 dicembre 2010. Melgrati risulta entrare al casello di Pietra Ligure alle 20.09. Melgrati Superman. Si cambia la tuta e dopo 8 minuti praticamente rientra lo stesso casello alle 20.09, alle 20.17. Non è lui, è la segretaria che usa la sua via card. Ci sono 150 passaggi sospetti che la finanza ha registrato da settembre 2010 a settembre 2012. Rixi presenta rimborsi da 106 euro per viaggio a Cremona, ma le fiamme gialle si accorgono che, analizzando il telepass, perché vedete dei geni, potevate fare lavorare nei servizi segreti in alternativa, analizza il telepass e il telepass dice che si trova alla Spezia. Poi diceva di essere a Vicenza, ma era tra Genova Est e Genova Ovest. Oh, magari il teletrasporto in Liguria. Va bene, complimenti ai consiglieri regionali della vecchia giunta, perché i dati e le spese che stiamo ricordando sono 2010, 2011, 2012. Complimenti, complimenti, bravi, bravi. Allora, Rizzuto, le chiedo un po' di pazienza ancora, anzi no, iniziamo con lei perché volevo far partire l'applauso, ma ho un po' di problemi. Ce l'ho l'applauso o non ce l'ho? Ce l'ho? Vedrai che ce l'ho l'applauso. Fatemi un applauso a questi consiglieri della regione, così anche loro sono contenti, se no si sentono discriminati. Oh. Rizzuto, parliamo con lei di cose serie. Allora, Rizzuto, lei è l'amministratore delegato di Fab Totum, ho capito bene? Sì, ho capito bene. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa fate? Poi dopo il GR ci racconta la sua avventura imprenditoriale. Mi dica solo cosa fate. Di fatto noi facciamo stampanti 3D di un nuovo genere, che sono chiamati fabbricatori personali. Sono delle piccole scatole di 36 cm di lato che permettono di stampare in 3D, fresare e scansionare oggetti. E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo le ampie dosi di Malox, adesso un po' di zucchero, un po' di dolce, perché stavamo parlando con Marco Rizzuto, amministratore delegato di Fab Totum. Rizzuto, quindi voi avete creato una società, sapete, lo dico perché si fosse messo in collegamento, che dopo l'ampia pagina sulla poco invidiabile classifica degli sprechi cerchiamo di affiancare volutamente i casi emblematici, non certo statistici, di chi si è rimboccato le maniche e ha creato società proprio durante gli anni di crisi. Allora, lei ha creato nel 2013 Fab Totum, ci diceva prima, producete stampanti a 3D con basso costo. Cosa vuol dire basso costo? Sì, sostanzialmente oggi come oggi le stampanti 3D, che sono una tecnologia un po' vecchia, stanno comunque diventando una tecnologia di consumo e quindi il prezzo sta scendendo sotto i $1,000, quindi 1000 euro. Il mercato di riferimento adesso è gli Stati Uniti. Com'è che avete creato questa società? Prima di tutto è nata da un'esigenza, perché è nata attorno a un prodotto, quindi da ex architetti avevamo bisogno di una macchina per costruire dei modellini. È un architetto quindi? Sì, non opero più ovviamente, però sì. Prego, mi diceva, scusi? No, e sostanzialmente avendo bisogno di fare modellini che richiedono molto tempo per i corsi di studio, abbiamo creato un macchinario che ce li potesse creare, quindi stampare in 3D o tagliare dal legno e da altri materiali, e quindi a un certo punto ci siamo trovati tra le mani un prodotto che poteva essere interessante. Abbiamo fatto un concorso al Politecnico di Milano, lo Switch to Products, sostanzialmente un concorso di design per i prodotti, abbiamo vinto e vincendo siamo stati. Quindi avete vinto il concorso del Politecnico? Sì. Ecco, no, perché ci sono anche notizie positive che riguardano appunto in questo caso l'Università del Politecnico di Milano, concorso per startup. Che cosa vi ha offerto il Politecnico? Beh, ci ha offerto prima di tutto formazione in un ambiente di coworking. Che vorrebbe dire coworking, che si lavora tutti assieme? Praticamente è uno spazio dove tante startup riescono a lavorare insieme, sostanzialmente è un open space, uno spazio aperto al lavoro di tutti. dove ci si scambia anche informazioni, si cresce insieme in una fase proprio di incubazione, quindi ancora prima magari di essere costituiti come società, come nel nostro caso. Chi vi ha dato i soldi poi? La nostra storia qui è un po' differente dalle altre, nel senso che ci siamo rivolti al crowdfunding, che è, diciamo, è il finanziamento dalla rete. Raccogliere soldi da chi vuole mettere, crede in un progetto attraverso la rete. Esatto, siamo andati sulla piattaforma Indiegogo, che è aperta anche agli italiani, e abbiamo fatto sostanzialmente quello che è stato un record l'anno scorso, ormai 2 anni fa, nel 2013, abbiamo raccolto a fronte di una richiesta di $50,000 ben $589,000. Cioè 10 volte quello che avete chiesto, più di 10 sì. volte? Sì. Quindi funziona bene nel caso vostro, insomma, il crowdfunding. Le banche no? Le banche non a quello stadio, perché comunque noi avevamo chiesto, avevamo bussato a parecchie porte per chiedere di fare dei prototipi per dimostrare il concept. Alla fine abbiamo dovuto investire noi quei soldi e poi però abbiamo... Ma che cosa vi rispondevano in banca, mi scusi? Beh no, più che banca abbiamo cercato attraverso, non so... Mi dica. Acceleratori o altri enti che potevano supportare l'idea di giovani come noi. Ovviamente a quell'epoca non pensavamo di andare in banca ad aprire un mutuo su un'idea così, perché era altamente rischioso. E nessuno vi ha finanziato, quindi i finanziamenti sono arrivati €590,000 su $50,000, vabbè, su $50,000 richiesti, vi sono arrivati addirittura più di 10 volte dalla rete. Come avete chiuso il primo anno fiscale? Fatturato. È andato bene, perché sostanzialmente dopo questo crowdfunding avevamo, diciamo, la benedizione della rete, dei media. Contate che non avevamo speso assolutamente niente in marketing o in pubblicità, quindi è stato tutto creato dal passaparola. E dopo un anno abbiamo chiuso con circa 1,2 milioni di fatturato. 1,2 milioni? Bene. Dipendenti, collaboratori, dipendenti? In totale diamo lavoro a 15 persone. Ah, tra dipendenti e collaboratori. Senta, avete avuto qualche vantaggio dalla burocrazia? Insomma, avete avuto problemi con la burocrazia? Noi sono sempre domande che facciamo a tutti gli ospiti delle startup. Mi dica. Diciamo, essendo una startup innovativa, il nostro primo problema è stato appunto farci riconoscere come startup innovativa. Tant'è che allo sportello abbiamo incontrato la proverbiale signora anziana che, per esempio, diceva che una startup che lavora nel campo della stampa 3D non poteva essere startup innovativa perché produciamo e facciamo vendita al dettaglio. Ma interessante questa distinzione, da manuale nelle grandi università degli Stati Uniti, cioè se uno vende al dettaglio non può essere una startup. Ma chissà la signora che film sarà fatta. E altri vantaggi o svantaggi della burocrazia? Sostanzialmente abbiamo avuto altri disguidi dovuti, diciamo, un po' endemici magari del sistema italiano, che è quello di non aver ricevuto subito il gas perché gli uffici comunali avevano le pratiche stralente, e questo è stato... Dov'è che avete sede? Non gliel'ho chiesto. Vicino a Paullo, a Trebbiano, nel sud del Milano. Bene, lei, insomma, l'esperienza è positiva. C'è qualcosa che vuole raccontare a tutti gli italiani in ascolto, sconfortati dalla classifica del venerdì di Focus Economia? Un messaggio? Sì, prego. Sostanzialmente la prima cosa che dico sempre è che quello che ho scoperto nella mia esperienza è stato quello che per validare un'idea e arrivare a almeno testarla sul mercato non serve più gli strumenti, non servono più ingenti somme, non servono investimenti, bastano piccole somme. Oggi c'è la rete, ci sono anche altri canali, e per avere una validazione di mercato, ma soprattutto avere magari anche un primo investimento, oggi non serve più avere il capitale. Quindi l'unico limite è semplicemente la volontà di mettersi in gioco. Un piccolo investimento di €5,000, tutti bene o male possono farlo, un gruppo lo può fare e lanciare una propria idea. Quindi prima le idee e poi i finanziamenti, possiamo dirlo sì. Così. Beh, anche una volta era il contrario, con anche dei grossi rischi, prima i finanziamenti poi arrivavano le idee, prima dello scoppio della bolla. Grazie, in bocca al lupo a lei, ai suoi 15 buonasera. Tra collaboratori e dipendenti, grazie per averci un attimo risollevato. Così, cioè, dobbiamo accontentare anche di poco dopo la classifica, però insomma sono sempre casi emblematici e spero anche modelli per chi ascolta. Grazie a Marco Rizzuto, amministratore delegato di Fab Totum. Allora la borsa e poi poi casi Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La borsa, vi dovete accontentare di me oggi. La giornata è piattina: Milano più 0,30%, Parigi più 0,60%, Francoforte più 1,70%, Londra più 1%, l'America sul Dow Jones più 0,40%. Tra i titoli, bene, Steam Microelectronics più 3%, Azimut più 2,90%, Mediaset più 2,90%, ancora su Mediaset l'ipotesi già illustrata ieri di un interesse della francese Vivendi, e poi le attese sulla raccolta pubblicitaria dovrebbero essere superiori a quelle degli analisti, quindi migliori delle aspettative. Mediolanum più 2,50%, Tenaris più 1,80%, Luxottica più 1,40%, Campari più 1,20%, A2A più 1%, piace il piano industriale, 2 miliardi e 100 milioni di investimenti e più cedole, così comunica il gruppo A2A, in 5 anni l'utile salirà a 400 milioni e scenderà a 2 miliardi e mezzo. Con i dividendi in aumento raddoppiati nel 2019. Fronte opposto invece Yux, un po' di realizzi, meno 1,70%, più al palo alcune banche, la Pop Milano da un lato meno 1,25%, domani tra l'altro c'è l'assemblea sia del Banco Popolare che della Popolare di Milano, e anche il Banco Popolare perde lo 0,80%. Ancora Intesa un po' sottotono, meno 0,44%, anche se si torna a parlare della possibile quotazione di Fideuram. Il numero uno, Carlo Messina, ha detto non esiste alcun progetto di quotazione slegato da acquisizione nel private banking, se non ci saranno acquisizioni non ci sarà quotazione. Bene, altri titoli: Anima Holding più 7,5%, possibile cessione alle Poste Italiane della quota posseduta da Monte dei Paschi il 10%, e gli analisti sottolineano che le Poste sarebbero un partner ideale per Anima Holding, sicuramente meglio del Monte dei Paschi. Ancora, migliore e peggiore in assoluto, uno è Anima, appunto, Nokia più 7,70%, Lazio più 8,11%, Bioera fa il botto più 30,70%. Fronte opposto, Invest meno 4%, Media Contact meno 3,60% e Valsoia meno 3,30%. Popolare di Vicenza e Veneto Banca, non parliamo di borsa perché non sono ancora quotate, però torniamo sul tema che trattavo in apertura, e cioè quando tu compri un'azione di una banca non quotata, tipicamente le piccole banche, le banche popolari, devi stare attento per un semplice motivo, che quando l'azione è quotata la vendi quando vuoi, c'è un flottante, poi ci potrai perdere, ma non hai problemi a cederla. Quando non è quotata, il prezzo viene stabilito dal consiglio di amministrazione, votato dall'assemblea, è arbitrario nel senso letterale del termine, cioè non è un prezzo di mercato, e poi puoi avere difficoltà a vendere, a maggior ragione se le hai comprate perché ti ha chiesto così la banca per accendere un mutuo. È quello che è avvenuto a molti ascoltatori che ci hanno scritto, ma soprattutto, ne parleremo fra un minuto con Fabio Pavesi, sia la Pop Vicenza che la Veneto Banca hanno abbassato, in vista della trasformazione in SPA, il valore delle azioni da 62,5 euro la Pop Vicenza a 48 euro, meno 23%, Veneto Banca da 39,5 a 30 euro, meno 22,7%. In diretta allora Fabio Pavesi, brusco il taglio del valore delle azioni in un mercato non liquido, quindi dove puoi rivendere solo la banca, quindi sono incavolatissimi gli azionisti, perché l'hanno fatto, e poi se mi dai anche un aggiornamento sul famoso risico delle popolari. L'hai detto tu prima, se fossero state quotate in 48 ore il valore distrutto sarebbe stato di 1,3 miliardi per la Vicenza, di 1,1 miliardi per Veneto Banca, quindi 2,4 miliardi andati in fumo in 48 ore, perché Vicenza l'ha deciso l'altro ieri e ieri l'ha deciso Veneto Banca. E appunto, fossero state quotate, avremmo visto in borsa una caduta del titolo del 23-25%, analogo al taglio del prezzo. Sì, non cambia molto per un azionista, perché chi ha comprato le azioni, vuoi perché gli piaceva la banca, vuoi perché gli hanno chiesto di comprarle per fare il mutuo, sappiamo che funziona anche così, chi ha 1000 euro di azioni Pop Vicenza Veneto Banca si ritrova con 800 euro. Il dramma vero è che il taglio ha riportato il valore delle azioni per Veneto Banca addirittura al 2006, cioè indietro, hanno spostato il lancetto orologio indietro di quasi 10 anni per Veneto Banca, addirittura al 2004 per la Vicenza. Cioè in tutti questi anni i CDA delle due banche decidevano che il valore dell'azione saliva. Anche quando c'era la crisi bancaria, queste banche adeguavano al rialzo il valore dell'azione. Quindi chi ha comprato titoli dopo queste date di fatto incassa le perdite. Cioè dal 2006, dal 2004? Perché sono tornati ai valori che avevano 10 anni fa, come dire, un balzo all'indietro di 10 anni in 48 ore. Come mai? Perché queste due banche sono sotto la vigilanza della BCE, che evidentemente ha detto: tu non puoi valermi una volta e mezzo il patrimonio netto quando mi fai 1 miliardo di perdite la Veneto Banca e 700 milioni la Banca di Vicenza, perché i manuali di economia insegnano che quando una banca fa le perdite difficilmente può valere più del suo patrimonio netto. Storicamente queste banche, tutte le banche popolari non quotate, valgono sempre più del loro capitale, quando le banche quotate valgono almeno da 5 anni a questa parte meno del loro patrimonio netto. Però questo divario era consentito perché la banca si autodeterminava il valore. Qual è il problema? Che tu sei contemporaneamente socio e cliente, e quindi in realtà hai condiviso le sorti della banca, sei stato allettato perché la banca gli dava il mutuo, in cambio magari compravi le azioni, il valore cresceva nel tempo e tu pensavi di aver fatto l'affare della vita. In realtà con questa svalutazione a piombo l'affare della vita non l'hai fatto. Domanda, ma qualcuno avrà anche venduto in questi anni? No, il tema è che da circa un anno a questa parte, quando è scoppiata uno l'inchiesta su Veneto Banca, due i temi sulla la riforma dei popolari, le banche, avendo problemi anche di patrimonio, hanno smesso di comprare i titoli, anche perché se tu sai che il tuo titolo è sopravvalutato, tu banca, difficilmente te lo ricompri. E quindi noi ricevevamo lettere oramai da mesi a questa parte, sia di azionisti della Vicenza di Veneto, che dicevano: io ho in mano le azioni, ho bisogno di liquidità, mi dicono di aspettare perché non possono ricomprarmele. Adesso magari le ricomprano. È lì il dramma, che chi un mese fa voleva vendere a 62 euro, oggi va in banca e gliela ricomprano a 48, capisci che... Abbia una perdita anche perché se questi prezzi non li facevano dal 2006, dal 2002 è ovvio che la maggior parte sono in perdita. Io dico sì, se hai proprio bisogno di soldi almeno comunque che te le ricomprino a 48. E forse adesso si aprirà il portafoglio, visto che probabilmente il valore è più consono. C'è un problema, che la BCE gli dice: guarda che tu il capitale ce l'hai appena a sufficienza per superare i miei esami. Quindi la banca fa fatica a ricomprarsi i titoli perché userebbe il suo capitale. Quindi rimarrà una situazione di liquidità, perché i vertici delle due banche hanno detto: no, dobbiamo fare questo perché in vista della trasformazione in SPA dobbiamo rimettere un po' a posto i parametri. Allora, e poi c'è la vigilanza della BCE. Noi l'abbiamo spiegato 1000 volte, finché rimani da solo puoi darti il valore che vuoi, ma quando vai a fare una fusione non è che l'altra banca dice: io valgo 0,7, tu vali 1,4, ci sposiamo. Ti dice: tu abbassi il tuo valore, se no non ci sposiamo. E quindi questa mossa è propedeutica a una futura matrimonio forse fra i due, oppure a un matrimonio tra una popolare quotata e una non quotata. È ovvio che se la popolare dell'Emilia Romagna, candidata come la Milano a comprarsi o la Veneto o la Vicenza, vanno a matrimonio e dicono: ma io valgo 0,7, tu non puoi valermi 1,4. Certo, perché si chiama due diligence. Esattamente, sarebbero stati costretti a svalutare comunque. Il problema qual è? È che negli ultimi mesi hanno bloccato il riacquisto delle azioni, e quindi chi veramente ha perso soldi è chi ha sottoscritto l'anno scorso gli aumenti di capitale a prezzo pieno. Per Vicenza chiesto agli azionisti 600 milioni di euro a 62,5 euro. Veneto Banca ha chiesto anch'essa un aumento di capitale per 500 milioni, pagato 39,5 euro. Questa gente a distanza di 6 mesi è sotto del 23%, secco. Presumo alle assemblee, il 18 aprile assemblea Montebelluna di Veneto e a ridosso della Re Vicenza, prevedo assemblee un po' calde, perché il tema è: ma come, tu per mesi mi hai tutto bloccato, mi svaluti il titolo e adesso la perdita secca la becco solo io. È pur vero che condividi i destini, se hai due banche che hanno perso insieme 2 miliardi di euro, l'azionista perde 2,4 miliardi, sembra un gioco quasi aritmetico, ma di fatto le perdite della banca sono riflesse sul valore del titolo. Allora scrivono alcuni: beh, ma insomma l'azionista ha il rischio. È vero, ci mancherebbe, l'abbiamo detto miliardi di volte, che chi compra un'azione partecipa al rischio di impresa, ma c'è opacità, impresa in questo caso bancaria. Un conto però è avere tutti i numeri e la trasparenza, perché per votare poi in assemblea devi conoscere tutti i meccanismi, e in questo caso poi non puoi dire compra le azioni per se vuoi mutuo, perché tanto poi le rivendi quando vuoi, e quando i prezzi sono alti o comunque le vuoi rivendere non riesci a rivendere, poi si scopre che adesso magari le rivendi ma svalutate del 23%, insomma dai, non è il massimo, tutto regolare, tutto legittimo, ma adesso andrà al voto all'assemblea. Però ecco, dal punto di vista così della trasparenza e della sincerità, se posso usare questo termine, non siamo proprio ai livelli da libro cuore. Le fusioni, perché Mediobanca, insomma, c'è un poker di nomi per le nozze sulla Popolare di Vicenza, è l'advisor della Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Credito Valtellinese, Popolare Sondrio, Cassa di Spagna, sì, di Genova. Adesso tutti gli advisor sono al lavoro e fanno una serie di ipotesi, vedremo cosa accadrà a breve, tempo 6 mesi, vedremo. Sta di fatto che ti compri comunque banche che hanno ancora un bel cumulo di crediti deteriorati, quindi voglio vedere chi si accollerà questo onere di prendersi una banca che ha in pancia crediti malati consistenti. Spero che sia capito tutto, perché ho visto arrabbiarsi il tecnico di regia perché ho toccato un tasto, comunque il passaggio io lo sento tutto, mi riferisco all'audio. C'è un errore nei tasti qui in regia. Allora, vabbè, c'è poco da ridere qui. Avremo delle assemblee delicatissime, e questo va detto, senza, non parteggiamo per nessuno. Gli azionisti, come tu raccontavi, erano contenti perché vedevano il titolo salire. Io ti potrei anche dire che siccome le demi-vierge, le mezze vergini non mi piacciono, non esistono soprattutto. No, sono d'accordo con te. Uno quando vede che la tua banca è l'unica che le azioni salgono, mentre tutto il resto del mondo bancario è massacrato dalla crisi del 2009-2010 e perde 10, 30, 40% del valore, o tu veramente sei in mano dei geni, oppure ti devi chiedere come mai il titolo della tua banca, proprio perché non è quotato e non ha una corrispondenza sul mercato, continua a salire. Mm-hmm. Detto questo, non voglio neanche dare la colpa solo agli azionisti, insomma è un problema di trasparenza e di rapporti. A dimostrazione però che non basta essere una popolare per essere più vicino agli azionisti, ci sono banche popolari bravissime con gli azionisti e col territorio, banche SPA quotate vicine agli azionisti e al territorio, banche popolari che non se ne sono fregate del territorio, non parlo solo di Veneto e di Popolare di Vicenza, ma in generale Etruria Lazio, vogliamo citare Etruria Lazio, la Popolare di Lodi e via così, che se ne sono fregate altamente del territorio degli azionisti, per cui basta con sta solfa, per cui solo lo statuto delle popolari, il voto capitario ci lega al territorio, sì, ti lega delle volte come un nodo, e qui mi fermo, l'hai detto tu, non ho detto io, grazie a Fabio, ti beccherai tu l'eventuale querela, grazie a Fabio Pavesi. Io resto però sul tema del risparmio e della gestione del risparmio, perché da lunedì, e qui permetteteci anche di ricordarlo, c'è una nuova iniziativa proprio del Sole 24 Ore. Mauro Meazza, prima di annunciare la pubblicità, visto che sei la voce ufficiale per il traffico di Radio 24, buonasera al caporedattore del Sole 24 Ore. Mauro, esce un nuovo lunedì, nel senso una nuova versione del lunedì del Sole 24 Ore, che avrà anche uno spazio maggiore sulla parte risparmio e famiglia. È così, Sebastiano. Buonasera a tutti in primo luogo. Sì, perché facciamo un rilancio importante della edizione del Sole 24 Ore del lunedì anche sui temi del risparmio. Non è solo il risparmio il nostro asset, uso un termine preso presto dalla finanza, ma insomma non è solo quello il punto focale che troveranno i lettori da lunedì prossimo, da lunedì 13 aprile, però al risparmio diamo uno spazio decisamente maggiore, le rubriche di risparmio e famiglia che i lettori già conoscono, che già leggono appunto ogni lunedì, le troveranno insieme all'esperto risponde, che come sai è un marchio storico, più di 30 anni di vita del Sole 24 Ore, quindi nella formula anche dei quesiti, dei chiarimenti, visto quanto bisogno c'è di chiarimenti, e fino a un attimo fa lo sentivamo, ci è sembrato importante investire e poi, su questo. E poi gli extra digitali, c'è un ebook la parte lavoro e carriere, questa parlavamo prima della campagna del Sole di Radio 24 per dati certi da parte del Ministero, del Ministro Poletti, sui nuovi occupati, lì vi sarà una sezione in più. Sì, quella è proprio una nuova sezione, lavoro e carriere sarà una parte dedicata nella prima parte, nel primo dorso, come si dice tecnicamente, del giornale, dove noi andremo a segnalare delle opportunità di lavoro, ma anche opportunità di formazione. È vero che oggi molto sta su internet come offerte di lavoro, ma internet ha diciamo, la cosa meravigliosa e nello stesso tempo terribile, che trovi di tutto. Certo. E allora serve in questo momento informarsi. Molte regole, come sappiamo, stanno cambiando e quindi cerchiamo di tenere il punto. Allora, la leggerò con interesse anch'io, la pagina Lavoro e Carriera, dopo la puntata di oggi. L'appuntamento è per lunedì con il nuovo Sole 24 Ore del lunedì. Grazie a Mauro Meazza, come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni gli auguri di una buona serata, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.